nel display, diciamo, l'ideale iniziare a lampeggiare la lucetta rossa, diciamo, io ho questo indicatore qua, il più 12 dB c'ho come riferimento e mi lampeggia. Quando inizia a lampeggiare vuol dire che stai andando bene, se sei meno di quell'indicatore vuol dire che sei leggermente basso. Come ti sei avvicinato, si è andato in quel punto lì che ti ho detto io, e hanno migliorato anche un po' le tonalità acute che eri un po' leggermente carente. Capa positivo, dai, adesso vediamo se mi ascolta. Salvatore, mi ascolti tu? Aspetta, lo chiamo io, dice che era in buca. Salvatore, ci sei ancora, ti ha chiamato Benito. Ho sempre però, ho appena preso la camionabile. Come, non lo senti? C'è la camionabile? Sono in Italia adesso, ho appena preso lo svincolo della camionabile. Sto entrando a metà galleria, diciamo. Salvatore, ti sento io e non mi senti tu, boh. Vabbè, la distanza c'è, il punto è così, capito? Tu sei Santiago 3 qua. Va bene, l'hai sollevata, bene. Cappa, l'ho sollevata, ma tu sei rotto e tutto quanto. E sei cambiata anche la tenda? Eia. Cosa c'è adesso? Sempre la stessa antenna. Io ti ascolto perfettamente, è forte qua, sei 9-10 dalle mie parti. Positivo, Salvatore, beh, mi senti? Ehi, a 5, sono una discesa di motore di carica, diciamo, là. Scappa positivo, dai. A 5 sono, non hai capito? Salvatore, tu mi stai arrivando 9 più 20, a bomboletta, sei qua. Sicuramente sei in zona del camionale, tu magari. No, io sono zona stadio. Sì, appena passato. Va bene, linea d'aria, siamo vicini, è tutto aperto, io sono. Ok, vediamo un po' se c'è qualche donato sul 10, attenzione al canale 10, chi vuole entrare, Salvatore, Roberto da questa parte, Benito, QRX da parte di Sandro, e poi c'è anche Luca, vediamo un po' chi vuole entrare. Ok, però non si è sentito niente oggi. Io sono appena entrato e non l'ho sentito. Ma vediamo un po' che non lo sento, lo guardate. Me l'hanno buttato dal nido, cacchio. E sono in vicino sicuramente. Già entra, qualche tornando in casa, già entra. Sono entrato, vuol dire che sta facendo altre cose, già è un affezionato della frequenza. Ma mattina ti fa la sveglia. E già l'ho sentito, la gara mia, Buria. A che ora entrate qua ora? Dipende, 3:30, 4:30. Noi non partiamo più tardi delle 4:30. E tu si dice da lì sopra. Ah, tu, io lo chiamo da casa, no, da giù da Patamona. Appena esce da casa lo chiamo. Addirittura. Dove sei tu, perché a Patamona vivi? Abito a Patamona. Ma dove, ai villaggi? No, in campagna. Non ho capito, no. Abito in campagna vicino a Patamona, capito? Capa, ma modulo anche da lì, c'è la stazione fissa lì. No, quando parto la mattina, no, è casa, no, non lo voglio neanche vedere. Tu pensa, ne ho costruito finito da poco, l'ho costruito da zero, e non ho messo neanche il palo perché non ne voglio neanche sentire a casa. Vabbè, se lo usi tutto il giorno alla fine ti basta pure la voglia di modulare, non ti do torto, dai. Quando arrivo a casa non sto pensando a lui, no? E fai bene, invece noi viceversa, stiamo tutto il giorno facendo altre cose, lo accendi 10 minuti, mezz'ora, un'ora, quello che è, per cercare un po' di liberarti di quello che hai fatto durante la giornata, dai. No, vabbè, ma non, anche io non è che sto dicendo cosa, ma anche io ero così. Nella casa di mamma, però erano altre cose, capito? Non arrivavi, ti facevi la doccia, cazzate, rosi, aspettavi che arrivavano altre volte, quindi è diverso. Adesso non arrivo a casa, c'è tante di quelle cose da fare, poi in campagna non ne avevi più, quindi io... Ho capito, ok, benissimo, adesso l'ascolti a Salvatore. Sì, l'ascolto, è pazzo, ma già l'ascolto, già riesco a capire cosa sta dicendo. Addirittura, no, vabbè, probabilmente per me è molto a favore, perché qua è sempre 9:20, non è mai sceso. Perché siamo di fronte, capito? Cappa. Ok, vediamo se è rientrato Luca. Luca, ci sei ancora? A te, Roberto. Vabbè, a te. Non voglio sentire meglio, bene. Sono iniziando la discesa di la più ripida. Ehi, ha salato. A te, via avanti, Francesco. Che c'è anche Roberto e gli altri. Guarda se l'ascolti a Francesco, Salvatore. Sento bene pure io, Francesco. Francesco. Ciao, Roberto. Ciao. A me mi ascolti, Francesco? Sì, che ora sei tu? Ma c'è un'antenna diversa perché sei un po' più basso di Benito. Ovviamente anche apparato diverso. Comunque è entrato anche Antonello Compugno, se lo vogliamo salutare. Avanti Antonello. Ammazzalo quello, un bucchino. Questo non si ammazzalo. Tutto la culo. Altro che ammazzalo. Bucchino, l'ero fatto la cosa, non l'ho fatto riconosciuto. Ma vero? Magari ho ritratto, lo sai che quando collaboravo lei che sta pensando alla barattina, ti ho conosciuto 100.000, ho conosciuto 1.000 o 3.000, a ricordarmi di tutto, la verità non è che sia così facile, mi in 15 anni di, anzi di più di 15 anni, sarà 22 anni di cibo interne, già hai turbato la previsione. Stai turbando la previsione? Mi c'è il disegno, stai invecchiando. Però solo sono vecchio, c'è i capelli bianchi, a te che abbasso. Ecco qua, 10 watt. Scusa, Antone, cosa hai causato? Il capo tu? Il capo è stato. E come fai a disturbare? Io non riesco a capire. O è stato malomesso? È impossibile con l'apparato di su. No, no, c'ho le antenne che sono incasinate. Ho detto ieri a capocondomino, no. Dice la grandella, dice che tutti vedono bene e io vedo solamente male. Quindi a un certo punto io non sapevo, mi posso entrare per i fatti miei, mi sembra che io scemo serio del villaggio qui, ho sentito entrare per i fatti miei e almeno chi di tutto si arrabbia, ma non frega niente. Ma come si chiama? Cavofino tu stai utilizzando normalmente, cosa uso? Cavofino sto usando io. Ma sempre quella 2001 c'hai? Sempre quella, ma io non ne faccio TV, io l'altra volta ho pulito l'antenna, non ho fatto TV per una settimana, il problema sono le antenne, capito? Non lo so, è molto strano questo fatto qua, oh, c'è qualche amplificatore d'antenna c'hanno sulla centralizzata? No, ma siamo solamente a casa mia, non per gli altri, a quanto sembra, non lo so, vediamo. Io da quando sono qua io non ho mai avuto nessun problema e ti posso dire l'antenna della TV è a quanto sarà? 2 metri di distanza, 3 metri di distanza dall'antenna, vabbè molto più alta l'antenna del baracchino, non sono più di 3 metri di distanza l'uno dall'altro. Ma sta andando! Dai un saluto, ciao a tutti quanti! Sì, sono te! Ehi dai, faccio a lui, un attimino forse che sono quasi per arrivare, dai! Ciao a tutti! Ciao Sabato! 3-8 chi è che ha parlato? Comunque ciao Salvatore, non ho capito, c'è la stessa modulazione, Salvatore e Francesco, non so chi abbia parlato dei due. Che sono quasi per arrivare, ciao Rubi, ciao a tutti quanti, dai. Passati 1938, saluto a me che mi ha parlato, ciao ciao. Ah capo, va bene, allora già ho detto bene il nome, dai. Ok, e chi è rimasto qua? Antonello, vediamo se c'è qualche donato di nuovo, avanti chi vuole entrare. Quindi cosa può essere il disturbo secondo te Antonio? Ci sono le antenne che non servono a niente, il conseguenza. Adesso vediamo. Non lo so. Se mi piace l'antenna, mi compro quell'antenna da 90, me la porto sotto dove c'è la palabra, porto quell'antenna di baracchino che ci ho messo. E la prima quando vi la televisione che ci serve, la mia ragazza non mi dice niente. Poi se gli altri vedono bene, vedono male, non mi tratta proprio un tubo, la verità. Chi vuole va, si cambia l'antenna, si arrangia e paga. A me nel condominio non mi interessa proprio niente. Io sono lamentato, io ho 4 problemi, gli ho detto, non vedo niente. Gli altri dice, è vero, avrò la vostra giurito, ho detto, quando sono scemo gli ho detto gira gira. Se vedo male io vedo male gli altri quelli di sotto. Non è possibile trovare cosa. Non è che c'è qualche cavo dall'antenna TV che è sbucciacchiato, che non ha perso l'isolamento? No, no, vedevo anche mio fratello, quando piove, TLG, antenna 1, cosa dire, sta sicuro il tutto, non c'è niente. Grazie però solamente ha telefonato davanti a me, dice io non vediamo il canale 5, da 1, 2, 4, da 1, 2, 2, e per gli altri ha detto che il cazzo di guarda, secondo te, io ho detto, boh. Ma ha passato per scemo gira a gira, e quindi a un certo punto mi perdo l'antenna per i fatti miei, c'è la tocca in culo, non potrei giocare con loro. Quando si lamentano che non vedono la televisione, dico cosa vuoi? Io la vedo la televisione. E qui non mi interessa proprio niente. Ah, ah. andò via. A un certo punto bisogna fare così, no? Certo, non ci credono le persone, bisogna fare così. Ma che problema fa? Io non ho capito, col digitale non ho mai visto nessuno, a meno che non c'hai potenza esuberante, dico, è ad entrare sul digitale, cosa ti scopre il segnale, ti fa righe, che problemi fa? Poi c'è segnale, come se quando piove si appena tu che non c'è segnale, uno sparisce e poi ritorna, così mi fa. Perché digitale o vedi o non vedi, ti si può fermare l'immagine, perché non è come l'analogico, ti potrà fare la riga, eccetera, eccetera, poi si la scomparire, però digitale o vedi o non vedi, non esiste una via di me. Così mi fa, esatto, vedo o non vedo. Tanto male vado da coso, da piccolo mi compro l'antenna, così me la piatto e vedo. Pugliate se la tocca in quel posto. Guarda, se vuoi un consiglio, Antonè. Quando io ho cambiato l'antenna, l'ho cambiata l'anno scorso, le antenne, abbiamo preso il misuratore di campo con quella persona che conosci tu, che tu sei a mano, lo conosci Aldo? Ecco. Sì, ho capito, non c'è problema. Avanti, Black, chi è? Ehi, buonasera. Buonasera Roberto, buonasera Antonio. Aldo, questo discorso l'ho già sentito io, lo sai cosa era? Lo facevo vicino a casa, lo facevo. Siccome adesso ci sono, invece di mettere i fili, stanno mettendo quei scambiatori di segnale per spostare il segnale TV da una camera all'altra e funzionano in AM, sulla 27 funzionano e fanno quel difetto lì. Se c'è il baracchino vicino, entra o lo spegne o lo ti fa sentire tutte le modulazioni. No, non è quello il problema. Allora, il problema è questo. Io vi subo a casa mia, in pratica, e anche giù da mio fratello. Gli altri sono tutti quanti bene. È una cosa un po' strana. Hai capito? Il discorso è quello lì. Quindi tutti gli altri vedono bene, siccome qui c'è la parabola e c'è il digitale terrestre, quindi per me hanno confuso. La parabola, quello che vedono in parabola, il digitale terrestre magari non lo vedono per niente, quindi vedono tranquillo. E qui non c'è nessun problema, quindi adesso faccio così io, guarda in poi, mi prendo l'antenna, terrestre per i fatti miei, mi faccio impianto come si vede io in casa mia, poi quando non vedono digitale terrestre si lamentano, non vedono niente, mi dico ascolta, io da casa mia vedo tutto, quindi non è problema mio, io sono distaccato da voi, quindi butto giù tutto e vi fa l'impianto, dico e basta, il discorso è quello lì. Lo fanno anche quegli strumenti lì, non so se mi hai capito, che lo fanno, dopo l'ho sentito da poco e ho assistito a una cosa così. Tutto per quello il problema, a volte avevo voluto sentire tutti i giorni col cable, però una cosa, se io entro qualche minuto non disturbo, sento un cable, più di 10 watt, mi comincia a incasinare il canale, se invece sistemo l'antenna, nel cambio, per dire per i fatti miei, e metto 50 watt, la cosa trova normale, trova bene a casa, perché se i battitori sono nuovi, è una cosa un po' strana, quindi devo dire due sono le cose, uno solo vuole digitare terrestre, guardano più quanti la parabola, quindi non c'è nessun problema, neanche se ne accorgono. Usciamo solo io di turno, vedo male il fratello, vedo male anch'io, quando piove sparisce il segnale, perché l'antenna si riempie di acqua. E invece lei dice che è vero, cosa strana. Riprendi la roba. Allora stavo dicendo, Antonè, mi hai sentito comunque domenico, e se vuoi mettere l'antenna al massimo rendimento nelle zone nostre, tanto siamo vicini, e ho fatto le prove con tutte le antenne, di quelle le abbiamo portate diversi tipi, mettiti un pannello, perché come sono indirizzate, cioè il guadagno migliore ce l'hai con quell'appannello dove siamo noi, perché io volevo mettere un altro tipo di antenna, abbiamo fatto le prove e perdeva 2 dB in partenza dall'antenna, poi con la presa del cavo non ne parliamo. Quella pannello è quella che c'ha la migliore resa per la zona nostra, considerando che devi prendere canale 5, il ponte di canale 5 è delle private più della RAI, che vuole abbastanza aperto come si chiama, come apertura. Io ho capito, però non è problema quello. Io adesso se cosa faccio, mi prendo una bella antenna di quelle autori 90, da qui com'è, la piazza dei fatti miei, dove c'è la parabola, nel fianchetto, mi faccio un piatto per i fatti miei, mi collego io e mio fratello, poi dopodiché A me l'oliato non interessa niente, quando non vedo niente dico io per la casa mia vedo. Sono un po' per i fatti miei, quindi a me degli altri decentralizzato non vuole nessuna lingua, non vuole niente a nessuno, ma basta, cos'è quello lì, siccome non vuole che sia cosa, il paraffino che sia sopra il tetto, non so per cosa, perché sono gelosi, come ne so, quello che sia, comunque, però se me mangio così, se esco per le 9 non c'è problema, non disturbo la televisione, ma se esco, cioè disturbo a casa, mi giuro, non so la verità, perché se disturbo a casa disturbo anche giù, ma nessuno si lamenta, è strano, la cosa è strana. Vabbè, le onde elettromagnetiche sono maledette, poi se è una fesseria anche una massa, che magari un filo di massa non avrebbe nella massa a terra, tante fesserie, un cavo in dispersione, qualunque cosa, un'armonica che va a finire su quella frequenza lì, del ricevitore, del digitale terrestre, tante cose possono essere, solo col misuratore di campo ti rendi conto dove arriva il disturbo, solo con quello che puoi rendere conto, con l'analizzatore di spettro ti vedi l'armonica, dove cade la seconda armonica, sicuramente non è la seconda o la terza, non è che l'armonica cade su quella frequenza lì, perché sulla 27 non disturbi a meno che non c'hai uno di quei ripetitori TV che sta dicendo Domenico, che quelli molti lavorano sulla banda in AM, sulle bande a frequenze multiple della 27. No, non penso sia su quello, non ti preoccupare, comunque non è uno di quelli aggeggi io. Va bene, va bene, ripeto, vabbè, fa girare un po', dai, che stiamo monitorizzando questo canale qua. Fai girare per gli altri. Gli altri credo che ci siano ben pochi. Avanti, Domenico. Mi sa che siamo solo noi tre. Dai, se c'è qualche d'uno, venga avanti, poi riprendi la tua roba, se non c'è nessuno. Faccio una chiamata io, che magari mi sentono un po' più forte. Attenzione, su 10 chi vuole entrare, avanti con la buonasera. Beh, non c'è nessuno, vuole entrare. Ok, quindi sei già in dirittura di partenza, dove sei arrivato, com'è? Allora sto per prendere le buche, dai, per prendere le buche. Andrà bene, dai, sempre fortissimo, sta arrivando. Questo è il tuo baracchino solito? Non è cattivo, questo qui è un alleccio di riserva, un Texas, capito? Lafayette, così? No, un Zodiac. Microfono? Ti fai sentire anche con questo, non scherzi, adesso è stato in buca, probabilmente l'abbiamo perso. Ok, io direi di fare di nuovo un'altra chiamata generale su 10, attenzione al canale 10, chi vuole entrare, se no avanti Antonello. Ehi signori, adelante. Non so chi c'è, dai, io sto chiudendo, ho finito di là, buonasera a tutti quanti, alla prossima. Ok, ciao Beni, ci risentiamo alle prossime. Anch'io sto facendo, ora sto aspettando che mi chiamino, qualche minutino e anch'io sto un po' chiudo. Ok, avanti Antonio, per Benito. Sì, ciao Beni, salutoni me, come va? Bene Antonio, alla grande. Tu sei Santiago 7 Radio 5, hai migliorato molto dall'ultima volta che ti ho sentito. Cosa stai usando? Il tempo che sto usando, sono preso da a regime, come si dice. C'è più di TV hai qua in casa, quindi a regime. 7.50 mi direi mia moglie con un coltello mi ammazza la stanotte e poi mi tocca farmi il funerale e regalare tutte le cibiche. Sì, ma digli così a me, e col coltello si sporca, se vuole gli presto qualcosa da qua io. Tranquillo, noi con lui di mia moglie come detto siamo una pezza d'acqua. Adesso si usano le cintole. Ma così si sporca. Questo qui diventa 5 colpi neanche se tolgo il coso. Vieni. Vieni Robert. Adesso si usano le cintole, non l'hai visto? Che da casa ne avviene 49 di cintole, quella di Sara, la ragazza che l'ha ammazzato, che adesso alla fine si è scoperto che l'ha ammazzata probabilmente con la Sabrina, con la cintola. Così non ti sporchi. Già è vero. Allora, compagnia di la cintola da via. Adesso se vuoi ammazzare qualcuno mio, vieni, non c'è problema, basta che trovi un terreno, dentro un po' ce lo metti dentro, poi ti prendi e dici beh adesso facciamo così, faccio trovare il cellulare in mezzo a strada qualcuno, glielo porta e poi ti fa intervistare, ti fa un colpo di soldi, dice che nessuno è pagato lì, come quando vanno alla Camera dei 5, tipo l'avvocato che poi si è sparito, ha visto in televisione. Dice, oh, neanche lui ce l'ha pagato, ha detto. Strano, prima era un senza, con una maglietta normale, una camicia tanto stracciata, dopo qualche settimana già che ha fatta, aveva fatto. L'avvocato di Gozo, dico la tipa. Sì, l'avvocato di Gozo. Ecco, una cosa allucinante, cioè che meno male, Babalusa, no, noi non paghiamo nessuno, quando vengono qui in studio noi non paghiamo nessuno. Strano, ma vero, prima non disgraziato con la televisione. Dopodiché la cravatta. Era un avvocato di provincia, non conosceva nessuno, per dire, tutto un tratto, adesso se fai la quotazione come avvocato, quello minimo minimo, si piglia 1200 euro a bondata. Sì, ma non hai visto come l'hanno vestito l'altro giorno, domenica in televisione, tutto con quella giacchetta tipo Arlecchino, fatta bianco nera. Oh, QRT! Ok, ciao, bene, ci sentiamo alle prossime. Ciao, bene, saluto. Sì, una cosa, guarda, vanno in televisione per farsi i soldi, e sono la gente che va per farsi intervistare, a dire coglionate, per farsi 500-600 euro, 1000 euro, capito? Io so che il giorno del presidente almeno era 800 euro, allora non so se si è aumentato o cosa, però non, meno di 800 euro non li danno secondo me. Come cosa di presentazione in televisione? Fare un mezzo di intervista, come minimo è così. Eia, ok, attenzione Domenico se ci sei fatti un colpo. Signori, io interrompo, mi hanno chiamato, è pronta la pappa. Domenico, ti saluto, tanto non avremo modo di sentirci per oggi. Buona giornata, buon viaggio e buon tutto. Antonella, se mai riattacco dopo, se no ti tieni, ti salutato anche tu. Ciao ciao a tutti, QRT da parte mia. Dopo Domenico allora.